quel componente, parliamo del BVU 131, sotto la zoccola della valvola c'è un componente, sai mica i valori? Non lo so, la verità non ce l'ho io più, sono 31 e non c'è manco schema, non so cosa dirti. Dovete chiedere a Claudio mi sembra che sia... Vabbè. Allora, mi sembra che era un condensatorino, se non mi ricordo male. Dovresti chiedere a Claudio di quel condensatore, mi sembra che cambiando il coso non fava di più. No, si è bruciato proprio, guarda che quelli piccolini che hanno i vari colori. Ah, è intensa allora. Positivo. Non lo so allora, non so qual è il valore di quella resistenza, non posso dire, non c'ho di più, ma con lo schema c'ho, sta detto. Dovete guardare su internet, magari c'è anche, basta che guardi, metti più luce 31 e ti dà lo schema elettrico, e lo trovi subito. Ok, va bene. Una volta che seguo lo schema sopra l'autocollatura, lo guardi e sai i valori di quella resistenza, non fai per cambiargliela e la sostituisci, no? Non è che ci voglia molto, l'importante è che ti dico di staccare la valvola, se non ti secca la mano quella, quella non dica che c'è, già è poco. già lo so che maledetta. E più o meno la tensione della ventosa del televisore, è bellina quando la tocchi, ti secca un bavaccio per un'ora. Avanti Vittorio. Sì, siamo un tuo amico anche, ecco, va bene. Niente, allora, Antonio, quando ci sentiamo questa sera devo mettere per la forza venire in quella zona, cosa ne dici? Vieni quando voglia, sono qui, non c'è problema, che non ti rapisce nessuno. C'è anche me, mi hanno portato del vino buono, ti invito anche il vino buono. Allora lo assaggiamo. No, devo suonare di fronte a... devo fare delle prove, stiamo facendo le prove lì. Abbiamo cambiato magazzino praticamente. Di fronte ai carabinieri, c'è una scuola lì. E stiamo provando il settere. Verso le 5:30, però io mi anticipo, vengo prima da te, verso le 4. Ti porto questa parte così lo sistemiamo per sempre. Va bene, d'accordo. Tanto nel fatto tu non c'è problema. Io apro i baracchini, prendo la sigaretta e modulatore, intanto tu mi devi dare poi il mostrato, mi lasci la fusata, io poi già me la stiamo in tanto. Così ti prendo il pezzo stasera. E così se il samurai non c'ha altri problemi, domani glielo puoi anche usare a casa. Perché un attimo a sostituire quel cavolo di roba? Un attimo sì. Sono due transistor. Quindi se è come ti dico io che fate subito per cambiare il transistor, vedrai che sta funzionando subito. Perché uno fa AMFM, l'altro fa le bande laterali. E il modulatore è quello in pratica. Senza, se non dà attenzione ai finali, vuol dire che è quella. Sì, in effetti quello lì non è un'urgenza, le missioni. Quando preme la portante se ne va al massimo, capito? Proprio va in esubero, perché è proprio una questione di componentistica. D'accordo, caro. Chi è l'amico che stava chiamando prima? Come saldo di Tito di Portatore. Ah, da Portatore. Siamo pure parlati un'altra volta, pare che lo sentivi basso basso, eh? Infatti ho sentito bassissimo. Che saldo tigre era comunque. Cava. A te magari piace questa modulazione. Oh, Iuia. Cava. Sto modulando con 5 watt, ci credi? Se aumento massacro l'amplificazione, devo diminuire l'amplificazione. della centralina. Tu stai modulando con 5 watt e io con 2 e mezzo, perché non posso modulare altrimenti. Sono condannato a morte con questo cavolo di antenna. Prendo l'antenna, ce l'ho io. Sta spiegando i componenti, potevi dire l'altro, ma che c'ho io. C'è la carica che intera, il pezzo di dove è chiamato vai, di, c'è lo stilo già intero, e il resto è da misurare, capito? Qui è il problema, è del globo, del blocco, dove c'è il reattore con i cosi, i radiali sono avvitati, si entrano, perché avevo fatto una modifica, avevo trapanato perché erano tutti fidati e ne sono usciti i pezzi, però quando è entrato il trapano ha cercato di scavare un po' a fianco, non sono centrati bene. I radiali ci sono, ce ne sono quattro, ma sono posticci, non è una cosa sicura, sono così, messi tanto per dire, però non sta lavorando bene. L'antenna di per sé è buona, tutto il resto, il problema è di tutto il blocco di sotto. Ti guardi quello che ho io di qua e te lo porti via, tanto io non ne faccio niente, capito? Sto dando la gamberia, quindi non ne posso, se ti serve te lo prendi. I radiali ce l'ho agganciati al coso io, quelli della Mantova sua originale, alla mia 27 li ho agganciati, va benissimo, un bel. È capace che quello che hai tu è buono, porca miseria. E te lo prendi stasera, dato non mi posso nulla, c'ho la carica, c'ho il blocco in pieno, lo pulisci appena appena, un pochettino con la, no, con la carta abrasiva, con la spazzola. E sei pronto a usarlo quando vuoi, capito? Ho fatto che sostituire tutto il pezzo di sotto, adesso lo lasci, quello, ci metti quello che c'è su. Ma ascolta Antonè, i furi per innestare, i radiali ce li ho, i radiali li ho tutti buoni. I radiali, una volta che io li inserisco, hai possibilità di poterli poi avvitare, non è che devo sganciarne, fare lo stesso lavoro che ho fatto il mio, nel senso che sono puliti gli innesti. Guardate, tre fuori sono a posto, l'altro ci è rimasto una variare dentro, infatti che è il pezzo del rame, cioè l'avete visto, ma col pezzo del rame, non fa altro che comprare, non toglierlo. E poi dovresti fare i fuori, metti anche per quelli bloccati radiali, capito? Vabbè, quello che non è giusto, il problema è che almeno tre sono buone, poi sul quarto se mi stai dicendo che c'è qualche problema, allora là sono stato molto affrettoloso, gli metto una punta da trapano fina prima, poi una leggermente più grossa, al fine di poter recuperare proprio tutto lo spazio bello, che sia perfetto in maniera che non dei prodotti, cioè dei prodotti che disincrostano il calcareo, e riuscirò a sistemarla in qualche modo. Io sono stato troppo frettoloso, trappano e cosa, gli faccio un pianino, non ci vuole più, infatti è per questo che rimane un po' così, però lo voglio rimettere a posto come era prima. Vabbè, se questa te la pulisci con calma, gli passi quello che ti ho detto io, la spazzola, quella col trappano in ferro, e ti pulisci tutti quanti i contatti, eccetera eccetera. Col tappo che fai bel lavoro dove sono i radiali, poi quando sei pronto ho fatto per staccarne il pezzo da sotto della tua, ci metti l'altra, basta, non devi fare altro. E sei tranquillo. E poi fai la misura giusta, se ti metti 0,40 ricordati, 0,40 mm. Sì, siamo quello, non c'è problema, queste cose già le sono. Se posso Antonio, adesso che sono ricordo anni, per sistemare il computer e mi aveva dato il numero di telefono, sai che l'ho perso, ma tu il numero di Gianni ce l'hai? Sì, Gianni chi però? Gianni non è che ci siano tanti a frequenza, c'era con le Murdo e no, Sassari. Ah, K, perché c'è anche Gianni Riuso, già lo sai, Gianni 2, quindi Gianni quello che era con la produttore, se diciamo. K, da. Non già adesso non me lo ricordo, però lui non ti preoccupare per quello, perché lui adesso dovrebbe essere, avrebbe fatto, prima delle 5 lo sentiamo la baracchina, e così lo chiami e gli chiedi il numero di telefono di quello là. Posso non migliorare, perché è venuto quel tipo lì, ma è un mostro, ma si è chiamato il computer tutto quanto, però me ne doveva sistemare un altro. Io adesso, il maestro ci chiami lunedì o martedì, neanche per forza vado a guardare il numero, non c'ho più il numero di telefono perché l'ho perso, ho chiesto da capo, l'ha andato prima, me l'avevo scritto in un bigliettino. Se tu avevi il numero di Gianni, avvisavi Gianni adesso, perché io il numero di Gianni non ce l'ho, avvisavi Gianni e lui chiamava il tipo, gli dicevi che io avevo bisogno, quindi chiamava me, e lui, là, quello là, il numero di telefono mio ce l'ha. Ce l'avrà, no? Senz'altro ce l'avrà. Certo che ce l'ha, perché io ho dato il mio numero di telefono a Gianni. Gianni l'ho chiamato, quello lui mi ha chiamato subito, è venuto immediatamente. È risolto tutto, però c'era da fare un altro lavoro. E quindi, che lui si era promesso di venire, ma l'avrei dovuto chiamare io. Adesso ho perso il numero di telefono e è un casino. No, non preoccuparti, io per quello già... Tanto mi salire qua stasera. Gianni entra verso le 5, quindi... Anzi, prima alle 5, perché lui va alle 5 al lavoro, quindi dovrebbe andare alla macchina, però che non spiega, magari si alzi tra un'ora, un'ora e mezzo e faccia la chiamata. Adesso tu vedi tutti i giorni alla macchina, dopo pranzo. Infatti, mi sembra strano come mai non sia entrato. Magari si è collegato prima, non lo so, o magari sta mangiando, niente di strano. E forse sta facendo una pennichella, vai. Che senz'altro. Allora io Antonè smonto, vabbè, non l'alimentatore fuori, sgancio l'apparato e ti riporto tutti e due, poi vedi un po'. Guarda, tutti e due gli avevano giù di stasera, non preoccuparti. Mi leggo la sigla dei finali, dopo gli accio la lente, mi sono preso la lente nuova, sembra un chirurgo di pacciocci, sembra, ok? Lente già ne ho anch'io, da vedere proprio microscopica, già per quello non c'è problema, te l'avrei portata di giusto. Ma come sei messo con la vista? Perché tu lo c'è? La lente, c'ho la lente, l'ho comprato, la lente cinese, ma bella, te la metti in fronte proprio sopra, come tipo cappellino, davanti a te c'è questa lente che la puoi sollevare e la puoi abbassare. Quando stai lavorando ti metti la lente e vedi benissimo, come se avessi un paio di occhiali. Ma io ti credo, no, sono belle quelle lente lì. Cioè la sollevi e poi la abbassi, ma aspetta, la abbassi su un occhio solo, è una o su due? Su due, sembra una lente per il ginecologo. Ah, ci picchia. Te la faccio vedere dopo, l'ho pagata dopo io, dai cinesi. Sono andato con Gianni un giorno a comprarmi i pantaloni, ho visto la lente e mi sono comprato anche questa lente. C'è la lampadina sopra, quindi puoi anche lavorare di notte. Altro prima uscivo di testa, uscivo per fare dei lavori, perché non c'era verso, mi mettevo due paglie all'occhiali, nulla da va. Dopo 5 minuti mal di testa. È maledizione, perché dopo una certa età purtroppo si perde. Anch'io fino a una certa età, fino a 5 anni fa, guarda, adesso non dico gli anni, ma fino a 5 anni fa vedevo i microbi. Dopo che ho cominciato con il computer mi ha rovinato. Vabbè, il computer lo uso da più di 30 anni, però chi mi sta danneggiando di più è in questo periodo qua, perché allora i computer di prima, Antonè, avevano, io avevo un vetro davanti e oscurato che era anti... adesso non mi ricordo come si chiama neanche, perché ho perso anche quelle che sono le condizioni delle definizioni. C'era questo vetro che mi faceva da... come si chiama? E quindi era immune per quanto riguarda alla vista. Adesso invece questi computer nuovi, adesso sto usando un televisore, è un televisore da 24 pollici grande per vedere le icone belle grandi, altrimenti non ci vedo un cazzo, per ingrandirle. E però mi sta danneggiando questo cavo di televisore, anche se lo guardo a 80 cm, perché c'ho la tastiera lontana e sono lontano, però il televisore, cavolo, è inutile, ti fa male. Sì, c'è bisogno di usare un televisore così grande, un 14 pollici non ti va bene. No, ho due monitor, di computer ne ho due per la registrazione, uno va a camerato sull'altro, uno è 17 pollici il monitor grande, che è quello, questo invece è il televisore che sto usando nel computer grande, perché ne ho uno piccolo e uno grande, e questo televisore lo tengo lontano, sì, a una certa distanza, però maledizione. credo che mi stia danneggiando gli occhi, perché è sempre un televisore, è grande, un televisore 24 pollici, è un LG. Ho capito. Ho già, io c'ho il monitor, già l'hai visto, il monitor computer mio, e poi che non sto neanche usando. E poi c'ho il, vabbè, c'ho due televisori qua, bloccati, fermi qua, tutti due funzionanti, figurati. Perché mi sono preso il televisore nuovo e quindi quei due non ce li ho buttati, l'ho messo a parte, in riserva. Sì, sì, però il televisore è meglio perché vedi meglio. È un LG, come se tu compri il televisore, però è collegato via carte, col computer, lo vedo bene, proprio si vede bene come è digitale. Ma il problema è che il televisore è un televisore, quindi guardato da vicino, è proibito, lo dicono anche gli esperti, di non guardare il televisore da vicino, a un metro, devi stare lontano, lontano, ma lontano da faccio che viene male. Purtroppo molto non è altro, c'ho solo quell'altro sul computer titolo, c'è 500 giga solo, questo grande ne ha 2000, quindi uso quello piccolo per registrare e va dentro grande per la registrazione finale, come digitalizzazione. Però, oh, caspita, ce l'ho vicino e mi sta danneggiando, me ne accorgo che lui mi sta danneggiando proprio gli occhi, perché prima vedevo benissimo, adesso sto cominciando a perdere. Già lo so, neanche io ci pensi bene da vicino. Ormai da vicino mi ho preso tutto, prima di guardare andavo tranquillamente e adesso mi devo tenere con gli occhi. Se guardo l'occasione devo stare mezz'ora è andata bene, perché bisogna avere la vista. Adesso finché mi pido un paio di occhiali che fanno vicino lontano, anche perché c'ho quel problema io. Sia da lontano che da vicino, e quindi devo comprare quelle lenti che costano 200 e passa euro. E fanno vicino o lontano per la vista. Ormai è arrivato a 50 anni e va in automatico, va, capito? Perdiamo con la vista. Lo so, si perde la vista, però il problema è che fino a qualche anno fa vedevo benissimo, ma da lontano vedo le targhe, caspita, addirittura degli amici, e che non fa vedere quella targa? E cavolo, lui è lontano, sembra un falco. Però da vicino al giornale, la Roma Sardegna, non lo leggo, devo mettere gli occhiali. È una questione di presbizia, io penso sia, o miopia, no, forse è qualcos'altro. Ah, che babbo 80 anni era una cosa allucinante. Babbo 80 anni vedeva le lumacchine nei terreni, figura, gli detto, ma io non vedo un cazzo, gli detto, ma la pensavo proprio per me, lui ci sono lumacchine e lumacconi là, scendeva e mi trovava, ragazzi, E erano altre persone, però anch'io ho quel senso di, però si perde, cavolo, perché sono questi meccanismi oggi, i televisori, i computer, fa perdere la vista, è proprio una cosa naturale. Gli occhi fuori, a parte che tutto il resto, vabbè, tu lo usi per lavoro, ma ci sono gente che lo usano per giocare. Tutto il giorno, 24 ore su 24, mangiano l'attaccata al computer e me la vai. E non mi suicido prima. Anche. Poi c'è anche un discorso, che quando sto molto tempo, la mattina viene per tutta la mattina attaccato lì, quando sei molto tempo lì appiccicato, sai cosa ti succede? Che vedi un po' zigrinato, non è perfetto, è perché proprio gli occhi si stancano, in base alla stanchezza che hai accumulata, probabilmente la perdita è quella. Ma l'unica cosa che va sempre bene è l'occhio di sotto, cazzo. Quello non si stanca mai, trova sempre il buco. Beh, quello non è un occhio, è un perno. Pure di notte la ciappa. È brutto cambiare argomento, no? Me l'hai buttata così giusto per sorpassare quella cosa. No, ma quello è un perno, il perno è un membro nervoso che agisce a seconda delle situazioni. È chiaro che quello, se perdi quello sei morto, No, guarda che non è un nervo, è un muscolo quello. È un muscolo, sì, ma è anche un nervo, perché c'è del nervo all'interno. Cioè tutto, è come tu, per esempio, non so se tu hai mai visto ammazzare un maialetto. Già non so cosa fanno la maglianetta, fanno il nervo, fanno quello per picchiare i bambini, una volta lo usavano, cazzo proprio quasi male, altro che acciaio, ma la mente è un buco, è un nervo. Quello del cavallo a volte si usava, la verità, non come proprio quello del maglianetta, quello del cavallo, figurati, ma quando ho visto un giorno, è pure... Se basta trovare una passata somma, me ne basta, sembra ferro acciaioso, ma manco col coso lo pieghi, con l'acqua calda. Oh, hai detto di cosa ce ne sento, io ce l'ho un nervo qua, non mi ricordo adesso dove cavolo l'ho cacciato, questo l'ho riportato, è un nervo di cavallo, ma era lungo 60 cm, ma di una durezza, si picchiavano i cavalli stessi con quei nervi. Non so, tu figurati quando abitavo in mansarda via Rizzidù, c'avevo un manganello tedesco, quello che era lungo un metro, dava un colpetto e si sollevava, diventava telescopico, si sollevava quasi 2 metri, si sollevava, tutto bello rigato, la pasta del cuore, come ti faceva noi a tirare a fianchi. Io perché tutti tutto che non sento, ma no, no, no, sei tremendo. Ma il comunque se lo metti in macchina, tu stai vivendo, adesso bisogna stare molto attenti, che non si può dire, se mette il click in macchina, la gente sta a vecchia, o si mette un pezzo di nervo, oppure un manganello, o cosa, la, come si chiama, la... la mazza da baseball, eh? La mazza da baseball, lo vorrei vedere. Cosa fa la mazza da baseball? Già è dura la mazza da baseball, è tutto vecchio. Lo so, la mazza da baseball però ce l'hai in mano. Quella... No. Ti demolisci a distanza, senza fare niente. Non è che devi prendere questo manganello e tirarlo, no, non devi fare niente. Quello va solo da solo. A mano andrà. Poi c'è quello che viene a scendere la mazza. Quello che è, insomma, adesso non ho capito cosa abbia detto. Cos'è detto che sei in calore? Cos'è? Avanti. Cazzo, mi ha detto tu, che in calore. Qualcuno. Dobbiamo buscare qualche cavallo, da qualche podolo. E chi è in calore? Poi sparito. Se è in calore non c'è problema, ci penso io a raffreddarlo. Cosa vuoi fare come Luca che gli sta riscaldando le guance, ma non l'hai conosciuto? Ti ricordi? Ma mi ricordo già, poveraccio. Uno o due sarà salvato, ragazzi. Ma non mi dice tu, che c'era ancora, veniva andare a manicomio. Ti ho detto a Luca, c'ha le guai, Luca ha detto stai zitto, ho detto quando entri, ha detto fai finta che sei l'amico mio, la non parlare di baracchino. Dice perché quello che c'è di fronte a te, gli ho detto andiamo al comio. E quando ti trovi tu in gesta, e chi sono mangiato vero, gli ho detto. È andato vento, tranquillo, ha bevuto, si è presentato, con il numero di Luca, però Luca c'ha le guai. Quando l'altro figlio gli ho detto Andrea, sai chi era quello? No, chi era? E tu la Luca c'ha lì qua, cazzo, potevi dirmelo, l'avevi picchiato, vai, gli ho detto lascia stare con la ragazzina, gli ho detto non ti devi mettere in mezzo ai casini. E la prossima volta quando lo ho detto se si comporta male, tanto già lo conosci, gli ho detto, sai dove abita, vai lo trovi, non ci vuole molto, ho detto. Per carità, quel bambino, però vedi, è stato educatissimo anche la mamma, proprio a chiudere definitivamente, perché evidentemente lei sapeva di queste stupidaggini che faceva il figlio, quindi a un certo punto ha desistito, quindi hanno chiuso tutto, e ne hai sentito più parlare? Ah, non li ho più sentiti, no. Una di più intesi, la verità. Neanche più visto, magari se mi capita davanti, ma neanche lo conosco più mio Vittorio, perché sono passati tanti anni, ormai lui c'avrà, ne ho 40 anni, lui ne avrà almeno 25-26 anni, No, quando è successo ne aveva 18 di anni, mio figlio ne aveva 16, aveva un paio d'anni in meno, e lui, pur quando sono andato lì, lui è esperto la situazione, praticamente dal giorno hanno chiuso, non si sono più sentiti, e sto parlando... Praticamente lui adesso dovrebbe avere 37 e mezzo, 38 anni quasi. E adesso sono già sposato, mi hanno detto con figli senz'altro. La depressione stava bene, gli altri ricordi che pare stava bene o stava male. Era ben... Vedi piazzato ero guapo. Era un bosso, già lo sai che era siciliano lui, nato in Sicilia, da un bosso siciliano. È un bosso, da un bosso muore di San Cesco, e anche essa ha ceduto parecchio di fare quei lavori. Lei era con... non mi ricordo con chi era, lei era con una... poi non so se si era sposata, la verità, non so. Poi c'era anche un'altra cosa che era stata lì, parlava Baracchino, la via Pitti Pezza Maria, quello era il figlio di Planetta, il Planetta cosa, come ha fatto la donazione, me. Io la conosco, non avevo una Planetta. Che sono originario di un paesino qua vicino. Sì, io li conosco tutti quanti. No, ma non è quello il problema è che a un certo momento hanno desistito da modulare perché quel mio intervento è stato determinante. Perché ho parlato in un certo modo, adesso non voglio dire in radio quello che gli ho detto, però è stata una scintilla che ha fatto sbucare il vaso, non so se mi spiego. Se tu ti ricordi bene, non so se ti realmente ti era fidanzata con coso, con come si chiamava? Quello che adesso fa punti radio. E un giorno è entrato il figlio, era sputtanata di brutta la mamma. Monteradio che è siciliano anche quello. Ah, non è siciliano lui, è stato quello che ho fatto, cioè Monteradio lì via Principessa Maria, non via Principessa Maria, diceva anche nel San Vincenzo, usciva insieme a lei, usciva. E poi gli ho detto il figlio, dice che l'altro figlio che non mangiava, che lui se ne andava a casa di quello. L'aveva fatta a pezzi la mamma, ma chi ha detto, non so niente io. Ho detto tutta gentaglia, sono nati male, era una famiglia disagiata, abitavano lì, io sono stato proprio di quella casa ed era una vergogna solo andarci, perché anche dove mi sono presentato lì, ho detto questi abitano qua, vedono, poi ho visto l'antenna, c'era sei tu, perché mi avevano proprio dato l'indirizzo giusto, perché mi sono documentato tramite un vicino che io conoscevo, che faceva giardinaggio, e mi ha detto, questo, perché anche questo era un ex vecchio CB, eccetera, eccetera. Allora sono andato a colpo sicuro a trovarlo, insomma, e è uscita lei, e lui era detto, lui non è uscito, no, è uscito insieme al figlio. E io ho cominciato a dire questa roba qua, boh, dal giorno chiuso il discorso. Figurati, il capo era quel periodo, era troppo poco da quel periodo, verità. Che è stato quello che è stato, però era bello. Di tutti i colori Binnera, ogni arrivo era una nuova Binnera. E in quel periodo c'era anche Falcone, mi ricordo. C'era anche Falcone, l'amante dei camionisti era, ogni volta lo sentivo lo guai, quindi il cane aveva della pizza. Oh, le cantate faceva, lui con un sacco di ricordi, Vittorio Tango si divertiva un sacco, gli altri ricordi di cui sto parlando, lo faceva spogliare, e le mutano 3-6 volte. Io sono Vittorio, invece lo faceva spazzire a lui. E poi si arrabbiava sempre con me, ogni volta che mi voleva la bottante, se a me cercava. Certo che sarei voluto essere curioso, ma proprio una curiosità così, senza sapere che fine ha fatto, perché è proprio sparito, ma dici che è sorso. Io so che abita a Sorso adesso, dalla sorella, però potrebbe anche essere magari che abita a Sassari lui in via Mendola, perché mi ricordo che la tua sorella abitava via, dove c'è sopra la pizzeria il Saraceno, mi pare che era. Addirittura in via Napoli. Oh, in via Mendola, non in via Napoli, in via Mendola proprio dove c'era la pizzeria, non mi ricordo se era la cena con la pizzeria, no, il Don Chisciotte. Ah, giù in fondo, angolo via San Pietro. No, angolo dell'Italia quasi, 50 metri prima dell'angolo dell'Italia era. E dove lo sono caso? C'era una pizzeria lì, Don Quixote era, mi pare, se non mi ricordo male. E Don Quixote era di santo. Era il santo, esatto, che lui, se ti dico di bene, c'era una lanciata rossa, mi pare che era rossa e bianca, se non mi ricordo male, la parcheggiava sempre lì, in via Mendola. E lo vedo sempre, santo, siamo amici, ci riconosciamo da 45 anni con santo. Ogni tanto ci troviamo. Ma che se ne ha fatto poi? Perché non ho avuto mai modo di. Ci salutiamo così, perché ci conosciamo. Che fine ha fatto poi quell'uomo? No, non lo so neanche io che fine abbia fatto, no, non è giù, non ho più visto manco a quello. Io ho visto da poco la cefata lì, diciamo le spin, ci siamo salutate, ma è un po' invecchiato, non è, e abbiamo quasi la stessa età. L'ho trovato un po' abbattuto così, però non abbiamo avuto modo mai di fermarci a. Ci salutiamo così. Non ho saputo più che cosa, che figli ha fatto e che cosa sta facendo, forse è in pensione. Senz'altro sono in pensione, niente di strano, con l'età che c'ha, che aveva già 64 anni, figurati, sono in pensione senz'altro, lui ha lavorato una vita in pizzeria, mi pare. Sì, lui aveva la pizzeria, poi aveva fatto un ristorante, no, ma è il mio coetaneo perché... abbiamo fatto le scuole insieme, lui era però sezione A, io ero sezione B, e avevamo la stessa graduatoria, che classifica. In quale scuola era? Numero 3, no? Numero 2. Ah, era il numero 2, no, io c'era il numero 3. Come c'era cosa c'era? Roberto Pinna, Riccardo, ci avevo come compagni di scuola, il Becchino, figurati che... di fronte alla scuola dove frequentavo voi, la scuola con quella media, c'era, se ti ricordi, la Ferro Vecchio c'era. Non mi ricordo se era Tavoni o con l'altro. Tavoni. Tavoni, allora c'era lui. Figurati un po' tu. Con Roberto ci parliamo spesso. E anche con Riccardo, figurati. Poi tutti gli altri compagni di scuola non più visto qualcuno. Non so se sono vivi, boh. Sono morti. Io l'unico che mi ricordo, grazie del russo, l'unico che mi ricordo in classe mia c'era John Pinna, non so se ricordi John Pinna. Sì, John Pinna già l'ho sentito come persona, però non lo conosco, È quello che c'ha quel capannone che vende ombra, mi sembra lì, prima di girare alla rotatoria, per girare, vabbè, venendo dalla mia zona, diciamo, dai. Ho capito. Quindi il compagno di scuola pochi e niente ne hai visto, dai, solo John Pinna e basta. John Pinna e Alberto Casu, che poi abbiamo fatto militare insieme, Marina. Basta, solo questi due mi ricordo, gli altri non ho più visto, poi un certo Cosso, boh, chissà che fine ha fatto, non ci sarà più la Sassari. Altri poi che sì, ho conosciuto, non erano le Sassari, però vivevano in un paese, poi sono venuti a abitare qua, gente che ho trovato, uno addirittura un certo Roberto Di Cola che era non originario sardo, però abitavano tantissimi anni qui a Sassari e faceva il radiotecnico. Figurati, io ho perso di vista, ma io dici delle cose delle medie, due per me ricordo, poi gli altri non ho più visto nessuno. Dell'altra scuola che ho fatto dell'INAPRI, l'unico che è vero è Coso, non è stato Gianni Bravo 2, che lui era in seconda, cioè io ero in prima, lui era in seconda, e ha finito l'anno prima di me. E poi Coso, non è tanto vero, se fa piazze condizionatore d'aria e roba del genere, Balsamo si chiama il cognome, c'ha la via Uiani, pare che quella via dove vendere la cosa, fa questo lavoro, non vi ha più visto più nessuno. guarda che un figlio di un camionista che parlava per la china è fatta. Che non mi ricordo con gli occhi, di tu. E quando passano molti anni, Antone, purtroppo se tu una persona la conosci dopo che hai finito le scuole, ti vedi ogni tanto, non so, ogni due anni, no, ciao, è bene, due, tre, quattro, ti vedi ogni tanto, spesso, così, anche ogni due anni, allora sì, però se passano 30 anni non puoi ricordarti più, anche perché cambia il viso, sì, riesci a tirarlo fuori, però lo guardi, lui non è lui, allora lasci perdere, non puoi andare lì e dire, oh, ma tu non sei, viene male, non c'è tutto. Gli anni proprio due però, sto facendo un tipo frigorista, così, praticamente quasi, però non ho pompa di calore, frigorista è più che altro Gianni, l'ho trovato da poco Gianni. L'ho visto anche da poco, qua durato il mondo ed è venuto, sta lavorando a Usilo con un amico suo adesso, prima era da Russi, adesso sta lavorando a Usilo. Strano che abbia smesso, non ha più, lui ci aveva una apparecchiatura bella. Mi pare che l'ho preciso al tuo, c'è bella. Precisamente, questa muraglia è uguale al tuo, c'è. Mentre quando entrava, che la manca come mettersi tutto in macchina, in casa, non lo so, che non l'ho più visto. Ma è strano, non l'ho più sentito proprio zero, ma è anni che non ho... È strano che uno che... Aveva anche un certo posto, mi pare che aveva conseguito il tesserino, no? E aveva pigliato anche il coso, patentino di Dario Mattone, però per la V e la U, capisci, adesso non è che vale più niente, ormai i legni sono cambiati, quindi penso che sia decaduto. Ma pare che aveva preso la VSL lui aveva. Ah, non è il VSL, lui era IW0. Ah, ecco. E ha conseguito quella cosa lì. Però è strano, perché era appassionato, ci vedeva, aveva anche amplificazioni abbastanza potenti, rilevate da un amico, non so. Sì, vabbè, gli riusciva forte di dar forza, a Usilo ha fatto anche 10 watt e ti riesci fortissimo, non è che ci voglia questo gran canno. Lo so, ma Usilo è lì, come dice, la mamma della trasmissione. Però giustamente per arrivare in certi punti è necessario anche pompicchiare un po'. Io ad esempio sto pompando qua, che cosa sto pompando? Sto pompando niente, sto facendo un 2 watt e 8, ma neanche a 3 watt sto uscendo. E ho negativo il watt, mi sta dando negatività, perché quando parlo da 3 scende a 2 e poi risale di nuovo, quindi c'è scompenso. Beh, l'apparecchio è normale quello che c'è, originale, cosa vuoi di più? È proprio originale, quello che avevo dichiarato tanti anni fa. Però funziona sempre, però se stiamo per partire anche questo, poi dopo quell'alimentatore l'ho agganciato a questo. E mi dava lo smitter che era completamente bianco, caspita, prima era giallo, adesso è bianco, ho spento subito, quello aveva neggiato e vabbè. Però non volevo neggiare anche questo. Meno male non hai neggiato quello, e si è accorto subito. Guarda, non ho visto la... No, ma lui il coso, il display è tutto verde, no? È diventato chiaro, bianco, davvero, è diventato bianco, ha fatto un rumore enorme e la trasmissione è sparita. E beh, ha fatto un rumore di audio, senz'altro. Sì, ha fatto un rumore, un ronzio, e infatti non mi sento più. Mi è successo che stiamo parlando con Antonio Grotta. Proprio lì che non ti sento più, che non ti ascolto, non ti ascolto, ho sganciato, ho riparlato, niente, mi è salita lo smitter del lago del wattmetro a 10, a 0 proprio, e niente, non ha più trasmesso. E cappa, e ormai è salvato, per quello. Fino a cosa si può fare, Antonè, se riesci a recuperarlo, se no è un disastro, perché sinceramente prendere per solo non la sento. Ah, lo recupero tutto, infatti già lo recupero. Sono le 14.47. Ma 14.47, così, non l'ho fatto. Io tremo in 10 sono praticamente. Io adesso metto gli strumenti in macchina, perché lì mi devo portare l'amplificatore. L'ho recuperato l'amplificatore, era un vecchio, l'ho riesumato, io ho una bella soffiata, un compressore, con il pulito l'ho acceso, su era 30 anni fermo, l'ho acceso, perfetto. Però c'era una presa, siccome dall'amplificatore c'è una presa macchio, e quindi si era rotta la presa interna, allora gli ho fatto una piastrina di protezione dietro, per, quindi le viti sotto le zampe dall'esterno, quando le avviti deve tenerselo tutto il gruppo, no? Se no era un casino, dovevo collegare da dietro un filo esterno, mi veniva male, poi questo filo non mi piace. Allora cosa ho fatto? Ho recuperato questa presa, gli ho messo una prolungata piccolina da 10 cm, presa e fila, e quindi è tutto lì, capito? Non devo portare questo che ho preso. E stasera sono lì. Poi se capita ti porto a vedere cosa stiamo facendo. Va bene, non c'è problema. Anche se so che la musica non ti piace, purtroppo. Non mi piace la musica, a parte che sia musica buona, quella per andare, poi non è che devo andare in bagno, no, aspettare come si dice, la musica ti si fa il senso di mettere la musica, se no appena per darti l'istinto. No, io so che quando suoniamo non piove. Meglio così. No, vabbè, facciamo pezzi di gruppi degli anni 70, no? E facciamo musica di come si chiama? Non mi ricordo neanche come si chiama quel tipo, perché mi è così antipatico. Quello che è morto lì, Michael Jackson, non Jackson, Jackson. Ho capito. C'era l'occasione, un palizzato, c'è stato un gruppo, beh. L'occasione di questa settimana, diciamo, macchine fosse questo che stanno vendendo, ce n'è una 3.000 euro nuova fiammante, poi c'è anche la moto, c'è addirittura, e poi nell'occasione c'è poche lo pare in vendita a pedalietta fuori di Gabbola, c'è addirittura un negozio intero di pesca. Ascolta, me dato che stavi parlando così, non è che sei qualche luno sta vendendo una macchina per un amico verino e non hai disponibilità. Una vettura, una 500 vecchia, non di quelle vecchie, una 500, un appunto, a un prezzo così. Ma se fa visto una 500 nuova era, modello nuovo, 500 euro ho visto il saltello, senz'altro l'ho venduta subito. Colore rosso era. Mamma mia, ma tu l'occasione c'hai? Io c'ho l'occasione qua. Accidenti. Non voglio aiutare questo amico qua, una persona, poverino, è senza lavoro, senza gente, io guarda che mi trovo in una macchina, io non posso andare neanche a lavorare così. Se uno mi chiede di fare un lavoro in un certo posto, deve andare in tram, deve prendere un sacco di tram, deve stare un re, e quindi è limitato, con la macchina va lo vedi. Purtroppo l'asma tutta, niente, non c'è più la macchina, e con un appunto. Lui mi ha detto, una 500 vecchia, non 500 di quelle degli anni 50, no, una 500 di quelle del 90 in poi, delle penultime. Un appunto, una panda, che non scambia di cosa c'è entrata, perché naturalmente già hai capito di cosa sto parlando. E c'è l'occasione. Sì, c'era una bella l'occasione, 3.000 euro, perché ho 3.000 o 3.005, se questa nuova, se la vedete, c'è la fotografia, c'è dentro la moto, c'è un Audi 13.000 euro, mi pare tornando, bella, grande, di quelle aziendali, poi c'è un mezzo negozio di da pesca, c'è, gli articoli da pesca, tutta la base sequestrata. Appartamento, e poi che cosa è scritta? Il primo di dicembre del 2012 è il coso, mi pare. Dopo lo faccio vedere quando vieni qua. Ho capito, comunque ti volevo dire, ma cioè, perché 3.500 euro una macchina? No, lo vuoi spendere, sono in forza, non proprio il andante, poi se c'è qualche lavoretto più in là, non so se sono proprio duro, una macchina che cammini, che non sia, non importa, un migliaio di euro, non di più, a 3.500 euro è già moltissimo per questo ragazzo, poverino. Vabbè, se mi capita di leggere qualche passeggiare, di solito c'è una maniera di passeggiare io. Se se vengono magari qualche macchina a 500-600 euro di telefono e al limite ti lascio il numero di telefono di quello, infatti c'è la scritta per portare il foglio, quello che scrive vendere, e quindi lo prendo il numero, lo do a te, magari i telefoni e se la prende questa micotura macchina, dopo io non ce ne stanno. Ma tu mi hai detto 5-600, 600, 700, 800, fino a 1000, anche 1100, ma l'importante è che sia intorno a quelle cifre lì, perché 3000 è esagerato, oggi ci sono queste vetture, molta gente, sai cosa fa? Deve rotamarla, perché hanno comprato, ma che nuovo gente che è possibile, si trovano con questo quadro bronchiale, non sanno cosa fare, la macchina cammina, è buona ancora per camminare, allora loro per non rottamarla, perché devono pagare, potrebbero darsela addirittura gratis, perché si fa il fascio di proprietà, ma lascia perdere questo, se vuole un compenso tipo 500, 600, 800 euro, gli si danno, e poi se li trova in macchina e almeno riesce a continuare a fare il suo lavoro, però è un disastro. Già lo so. Cioè, se domandate le gratis per dire si paga il passaggio e basta, la macchina sta a tirare lui, lui si avvangerà, si fa il passaggio, lui se lo pagherà lui e basta. Tanto per non pagare adesso bisogna pagare, quindi è un casino. Ormai perché non conviene più comprare macchine nuove, ma qualche gira neanche a seconda mano. Un bel se costa la roba quest'anno. Sì, anche le vetture, così, io conosco uno qua vicino che ha regalato una Saxo a uno che lavora in albergo, gli ha regalato una Saxo, proprio regalata, gli ha detto mi fai il passaggio dopo di te, una Saxo che era buonissima, camminava tutto quanto, stavamo parlando al mancato, era una cazzata, camminava tranquillamente, la macchina non aveva niente. E gli avete fatto il passaggio, sta portata via, tutto a posto, è che c'era fatto il passaggio purtroppo, lui era fra eccetera, e tu lo sai che i passaggi costano più di 400 euro, però dico io, se tu già cominci a dargliene 1000 a lui, 400 di passaggio, poi lavori di farcetta eccetera, e ci siamo sempre a 2000, no, niente, allora, la macchina deve camminare, deve essere buonina. Poi certo se c'è da fare cambio d'olio, cambio di pastiglie, quelli sono interventini che è di routine, però senza esagerare, non è che uno può pretendere una macchina perché sta camminando, magari non ha neanche una macchiatura, 3.000 euro, e la macchina è andata, e ora devi fare, la devi rottamare, addirittura per rottamarla devi pagare, in questo modo non paghi, paga tutto quello, cosa che a volte ne frega. Quello già è vero, l'unico modo è così, ormai, che tempi che siamo. Bisogna fare così, bisogna fare che ci sono già cartoni, intanto quando si vedono in macchina l'occasione, telefono per sistemarle, poi li vengono sistemate, gli fanno qualche cosa, li vengono il doppio, capito? Per carità, io la mia appunto l'avevo pagata 3.500 euro, mi sono fatto fare il mio quando mi è venuta 4.000, ma è una stile, è una stile di valvole, è una macchina che già aveva 56.000 km, non potevano darmela meno di quello, però preferisco quella perché ero abituato a macchine di una certa cilindrata e con la mia possibilità sono gravi le situazioni, io quello percepisco quello che percepisco, però purtroppo non potevo fare a meno, ero impossibilitato di trovare altro e mi sono imbarcato in queste cose qua, ma sono stato costretto perché ero a piedi. Se no, aspettando, avrei trovato magari qualche cosa da spendere meno. Però molte volte sei obbligato, eccetera, eccetera. Ma molte volte non trovi le occasioni, anche a poco prezzo. Andante, io non devo andare a Roma, a Milano. Qua il circuito è questo. Per fare 10 km, 20 km, che cosa me ne faccio? Di 1 a 2.000. È una cazzata. Però non ho toccato più niente, ma sono una macchina piccola, tanto per fare la spesa e cosa così, ormai. Così lo deve andare a 2.000-3.000, se hai fatto tutto niente, non deve andare d'accordo, no? A parte i consumi poi, perché non è il discorso un 2.000, certo il 2.000 ma quanto consuma? E poi un 2.000, quanto costa di bollo, assicurazione, eccetera, eccetera? Un 1.000, 1.100, 1.200, va benissimo, per i circuiti che facciamo noi. Poi se uno prevede che deve avere a Olbia tutti i giorni, beh allora ci vuole una macchina un po' più consistente. È chiaro, non puoi andare con un 1.100 tutti i giorni, così. A parte la macchina me le sento, le prestazioni sono quelle che ho, e con un 2000 anche l'abitacolo ha quella caratteristica che ti fa riposare, che non vai, che qua bisogna scendere la macchina, c'è un gancio, cioè, il discorso è quello, non è che questi 100 km siano molti, però ti dà quel vantaggio di viaggiare bene, comodo, eccetera.